Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dai studi di Radio Onde Furlane, qui da Udine. Oggi 3 aprile 2025, andiamo subito con la sigla di inizio. Bene, questo era il brano che inizia, insomma, il brano di come sigla di inizio di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica, oggi 3 aprile 2025, che comunque è un programma che viene mandato avanti grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Trieste e Friuli. E siamo qui ospiti a Radio Onde Furlane, e il programma ovviamente è iniziato ora alle ore 20, andrà avanti fino alle ore 21:30. Andiamo ora all'ascolto di questa band, è una band svizzera che è esistita nei primi anni 2000, ha fatto uscire credo 2-3 7 pollici, di cui uno, insomma, in parte ascolteremo oggi. Loro si chiamano PAC, sono appunto, come ho detto, dalla Svizzera, e questo è il loro 7 pollici uscito nel 2004, che si chiama Booth for Future. Wenn man die Hände gespuckt, ist alles für euch, Genossen. Sì, bentornate, bentornati all'ascolto di Zerrins Magnetics. Allora, stasera abbiamo pensato di parlare di parole vive e da dentro, e cioè di parole ponti, parole chiavi, parole che servono a buttare giù i muri, insomma, parole che ci parlano di pensiero e di azione, che tengono unite, diciamo, pensiero e azione, e appunto parole che vengono da dentro le carceri, da compagni e compagne che sono dentro le carceri, ma che arrivano anche da fuori, anche dalle strade. E poi approfondiremo un po' così alcune riflessioni del compagno Juan Sorroque, e poi parleremo anche, cambiando argomento, parleremo di ritorneremo su Israele, su, diciamo, il progetto di sterminio di Israele, per parlare appunto di questa ossessione, per chi ha ricevuto la promo, insomma la scaletta, diciamo, sommario di stasera, c'era questa frase, far rifiorire il deserto, e per parlare un po' di questa ossessione, diciamo, del mito fondativo di Israele, no? Come questa ossessione che Israele porta avanti perfezionare in maniera sempre più scientifica appunto i suoi progetti di sterminio del vivente, e cioè degli autoctoni, dei palestinesi e delle palestinesi. E niente, intanto magari mettiamo un altro pezzo e poi entriamo subito in merito con le parole vive. Allora dicevamo, parole vive da dentro, iniziamo proprio presentando un'iniziativa che abbiamo organizzato per questo sabato 5 aprile a Trieste, un'iniziativa di strada, e cioè la presentazione di Haiku senza Haiku, che è un progetto, ne avevamo anche già parlato insomma in precedenza, perché è un progetto che si sta sviluppando da un bel po' di tempo, un annetto. Però è anche un opuscolo, un libricino, diciamo, di poetico. E questo progetto è stato lanciato con una certa con passione, con sensibilità, da Juan, appunto, detenuto nel carcere di massima sicurezza in AS2, insomma, a Terni. E allora il compagno ha sempre Juan ha sempre avuto questa passione per questa forma poetica, appunto gli haiku, e ha deciso di proporre, insomma, un po' a tutta la galassia, chiamiamola così, anarchica, di cimentarsi con questo linguaggio, ma anche con altri, insomma, con una poesia semplice, anche una poesia non necessariamente colta o così accademica, ma una poesia dal basso, una poesia anche spontanea. E poi non solo, anche con contributi grafici, insomma, scritti vari. E l'obiettivo è proprio questo, di mantenere, di creare, appunto, come dicevo prima, ponti tra il dentro e il fuori, ma anche tra il dentro e il dentro, e tra il fuori e il fuori, e anche di trovare, insomma, degli strumenti, diciamo, che aprano, attraverso questa parola poetica, che aprano, che siano in grado di aprire anche le porte delle celle. E ne è uscito, molti compagni e compagne hanno partecipato, insomma, hanno aderito a questo progetto, che è stato un po' tenuto assieme dallo spazio di documentazione Il Grimaldello di Genova, e ne è uscito, appunto, una selezione, diciamo, di tutti i lavori presentati, e ha dato origine a un opuscolo, a un libretto molto bello, tra l'altro, anche dal punto di vista estetico, perché oltre a molti testi poetici, tutti veramente belli, ci sono anche sono stati stampati tanti contributi grafici, insomma, che ne fanno proprio qualcosa di singolare, molto così, che colpisce, ecco. E allora, che cosa, Juan? Beh, intanto, nella quarta di copertina si dice, appunto, le parole possono diventare forse ponti per le menti e i cuori, chiavi per avere accesso persino alle celle delle prigioni e oltrepassarne le sbarre. Le idee sono impossibili da bloccare e difficili da recintare. Questa è una chiamata per non smettere di sognare, immaginare e realizzare infiniti mondi nuovi. E Juan, nell'introduzione, appunto, l'introduzione si intitola La poesia non è un lusso. E lui è andato a pescare gli scritti di Sorella Outsider, di Audre Lorde, da Sorella Outsider, appunto, gli scritti politici di Audre Lorde. E dove, appunto, questa eccezionale donna scrive proprio così, esprime quello che per lei, no? Che cos'è per lei il linguaggio poetico, e lei dice: quel distillato di esperienze da cui sgorga la vera poesia dà vita al pensiero, come il sogno dà vita alla comprensione, cioè precede la comprensione. Cioè, lei dice, la poesia dà vita al pensiero, il pensiero c'è già, però noi magari non lo sappiamo, rimane qualcosa di fisico, quasi, no? Implicito, che poi con la poesia si scatena, emerge. E Juan ci dice, appunto, nell'introduzione del libricino Haiku senza Haiku, versi scatenati: io credo che queste esperienze, oggi più che mai, sono necessarie come relazioni di vita-lotta, come strumenti di interconnessioni e coesistenze reciproche tra le persone, con i compagni. È creazione di confronto tra persone. È il provare a creare ponti non alienati con l'altro, con il confronto diretto e creativo, con le diverse e infinite forme di creatività, anche attraverso la poesia. Questo per me è haiku senza haiku e versi scatenati. E poi un altro elemento interessante di questa proposta del compagno è questa, anche di conoscersi, diciamo, attraverso questo mezzo poetico, tra sconosciuti, che è un po' anche la roba bella, nel senso, la roba intensa delle relazioni, anche ad esempio epistolari, no? Con i prigionieri, con le prigioniere, che si avvicini anche se non ci si conosce, magari non ci si è mai conosciuti in persona. Quindi, attraverso questa forma, diciamo, di contatto dentro fuori, conoscersi tra sconosciuti, ma anche, dice Juan, tornare a conoscersi anche tra persone che si conoscono da una vita, magari, però in realtà è necessario sempre ritornare a conoscersi, no? Non è mai una volta per tutte, diciamo, le relazioni non si basano mai una volta per tutte su qualcosa di fisso, ma devono continuamente modificarsi e ricrearsi per appunto dare vita alle parole, ma anche dare vita anche alle azioni, alla lotta. E io metterei ancora un po' di musica e poi magari leggiamo qualcosa dal libricino. Provare a creare senza dare per scontato è molto difficile per conoscersi e riconoscersi nella diversità, non nella omogeneità, così come il confrontarsi nelle similitudini è conoscere e riconoscersi in e con diverse visioni di vita e del mondo. Utilizzando l'espressione e l'espressività come distillato rivelatore d'esperienza. Perché? Per porsi il problema di non riprodurre, come personalmente faccio spesso, i vecchi ruoli autoritari, né le vecchie dicotomie servi padrone. Perché aneliamo, sì, alla distruzione di ogni struttura coercitiva materiale, come alla distruzione di quelle strutture coercitive soggettive, sociali, culturali, morali, di ogni società autoritaria. Perciò sono e arrivano da diverse sensibilità e ragioni per le quali abbiamo creato queste iniziative di scrittura e letture di poesie, versi, pensieri, relazioni. E non bisogna aver paura di mostrarsi per quello che si è e mostrare anche la sensibilità, perché ci hanno educato che è debolezza e bisogna apparire duri, tosti. Spesso lo confondiamo con la radicalità, quando invece è il contrario. La radicalità è il coraggio di mostrare il sé. Sì, è solo incontro e confronto di relazioni fra persone che non si conoscono. E altre, sì, ma vogliono riconoscersi ancora e ancora infinitamente, perché piace quella curiosità magica della leggerezza, del benessere, dello stare assieme, e si ha semplicemente curiosità, voglia e necessità di provare e riprovare a confrontarsi per creare e trovare nuovi paradigmi libertari per coesistere in relazioni di vita lotta. Tutto qui, due scarabocchi per stare insieme, fare due chiacchiere, mangiare e bere, sorridendo o piangendo. È solo poesia dal basso, è povera, perché la poesia non è un lusso. E certo, non è e non ha la pretesa e la velleità di apparire per quello che non è, ossia metodi strategici, ideologici, per progettare insurrezioni o per essere pronti nel cogliere l'attimo della rivoluzione. Però teniamo a mente, e soprattutto nel cuore, che lo Stato capitalista, oltre a essere una struttura materialista, economica, politico, militare, è un organismo sociale potentissimo, di relazioni soggettive, e noi siamo parte di questo organismo, di rapporti autoritari, e che tanti e tanti di questi sono strategici nella società e sono socioculturali. Lo Stato capitalista non è basato solo sulla materialità oggettiva, perché le sue cellule fondamentali che uniscono il corpo sociale della civiltà sono metodologiche, di struttura oppressiva, di alienazioni, di educazioni sociali e culturali, e queste vanno avanti da secoli nelle nostre società, fino ai nostri giorni, tanto da far sì che in diverse forme siano state interiorizzate e si manifestino come istinti. Comunque io credo che non sono problemi da poco e sono molto complessi, e non bisogna smettere di discuterne assieme nel complesso dei massimi sistemi della civiltà. Personalmente credo che per ricominciare o imparare nei fatti, in pratica, a scalare queste grandi montagne bisognerebbe cominciare dalla base. Nessuno può iniziare dalla cima, è fisico, e non riesco nei fatti a visionarli, i rapporti autoritari come quelli libertari, lontani e separati, o alienarli da come ci vorremmo oggi relazionare. E credo che bisogna ricominciare dal primo passo, e un passo alla volta, anche da iniziative piccole come quelle che viviamo ogni giorno nei nostri ambienti, così come in ogni istante della nostra vita lotta, e che dobbiamo noi, gli anarchici libertari, provare a creare già nel mentre della lotta. Il creare con creatività e immaginazione, con visione, la nostra autoeducazione sociale e culturale antiautoritaria. Come on. E dunque, Haiku senza Haiku, versi scatenati. Allora, l'appuntamento è per questo sabato 5 aprile a partire dalle ore 16 a Trieste in Campo San Giacomo. Ci saranno diverse cose, appunto queste letture furiose, diciamo, delle poesie. E poi ci sarà un DJ set, poi appunto ci sarà modo di mangiare e bere, come diceva Juan. È importante, tutti, insomma, le offerte, diciamo, andranno tutte appunto per a sostegno dei prigionieri di Juan e degli altri prigionieri nostri, insomma, politici all'interno delle carceri. E quindi anche sì, ci tengo a dire, insomma, che anche il libricino ha questo scopo di raccogliere, è tutto benefit, insomma, ha lo scopo di raccogliere appunto qualche soldo per le spese legali e anche per le necessità che chi è detenuta, detenuto può avere nella vita quotidiana. Yeah. Ecco, siete sempre su Zardins Magnetics, sono le 20:40, un saluto anche da parte mia. Questa prima puntata di aprile 2025 di Zardins Magnetics, dedichiamo appunto la prima parte, siamo già quasi al giro di boa, come dicono quelli veri, metà trasmissione, ma comunque dedichiamo a questa iniziativa importante che ci sarà a Trieste sabato 5 aprile nel pomeriggio in Campo San Giacomo. Abbiamo già detto, lo ripetiamo, mi raccomando, insomma, cercate di venire. E, a me spettava così, ci eravamo divisi un po', di dire due parole, no, cioè io volevo dire due parole su, ancora insomma, su questo compagno qui. Prima però volevo, così mi ero nel frattempo, mentre la, chi mi precedeva parlava, ho pensato che forse haiku senza haiku, non l'abbiamo detto cos'è un haiku. Gli haiku sono, magari tutti lo sanno, ma comunque lo ripetiamo, sono delle composizioni di solito molto brevi, fulminanti, in versi sciolti, la tradizione del cosiddetto estremo oriente, ma comunque giapponesi nella fattispecie, quello che mi risulta, e niente, è uno spunto. Il simbolo di questo progetto è un capodoglio, quanto pare, sì, delle balene, un capodoglio, e che spicca in queste stampe. E ancora una cosa che mi veniva in mente sul fatto che qualcuno ha detto che prosa e poesia sono in realtà in rapporto inverso rispetto alla spontaneità, ovvero forse le poesie nel momento in cui vengono lette hanno un effetto di spontaneità, ma dietro, insomma, la composizione della poesia, chi l'ha c'ha provato, presumo, insomma, chiunque ci abbia provato lo sa, c'è fatica, c'è, sì, c'è un limare, c'è un riprovare, nel senso un provare di nuovo, ma è anche un cioè uno sperimentare nel senso di Galileo, come posso dire, un laboratorio, ecco, un empirismo della parola, perché non basta buttare, secondo me, parole a caso, ecco, così come anche invece la prosa paradossalmente è più vicina alla spontaneità pensata in questa maniera superficiale, ecco. Quello che sto facendo io adesso è un prosa, diciamo, abbastanza a braccio, e ci vuole poco per farla, no? Perché non c'è una ricerca dietro, non c'è tutto quel lavoro dietro le quinte che serve a mettere in piedi l'illusione di spontaneità, ecco. Questa visione di appunto rapporti non alienati, di sì, di esperienza, di autenticità con, sia con noi stessi, sia con nell'incontro, ecco, e nel confronto tra le persone, diverso appunto, è messo in rapporto anche con la quotidianità che è autoritaria, ma non è, anche qui ha ragione, insomma, mi ritrovo in queste parole che ha scritto Juan Sorroque sul fatto che non è una, così, una banale imposizione il cosiddetto sistema autoritario, eccetera, no? La materialità dei rapporti alienati del capitalismo, eccetera, come se fosse una un'operazione, cioè solo di analisi teorica e basta. Cioè, questi sono rapporti quotidiani. Nel momento in cui noi, per esempio, adesso andiamo sul posto di lavoro, sperimentiamo rapporti autoritari, punto fine. Cioè, non è che o rapporti inautentici o rapporti comunque dove c'è questa componente autoritaria e non libertaria. Non libertaria, c'è una tensione continua che crea come un'illusione di autenticità, ma nella realtà quei rapporti personali che si hanno su questi posti molto autoritari, sono i posti di lavoro, sono rapporti inevitabilmente, inequivocabilmente destinati a essere falsati, ecco, falsati nel senso di moneta falsa, ecco, non nel senso che c'è il contrario del falso e il vero, no, nel senso di che non valgono quello che valgono, ecco, non valgono per noi, valgono per altro. Mi sembra che era questo che volevo dire. Invece una cosa importante, appunto, che diremo, perché va detta, chi è Juan. Io personalmente non conosco Juan Soro, che neanche per via epistolare, ma comunque ne abbiamo parlato varie volte di questo compagno, che non è un prigioniero politico, insomma, lo diciamo per essere chiari, quando diciamo i nostri prigionieri politici, prigionieri rivoluzionari, però bisogna stare, cioè, nel senso, non c'è niente di male dire prigionieri politici, però c'è anche tutto delle questioni, insomma, decennali su queste vicende, cioè su questa distingui tra prigionieri politici e non politici, appunto i libertari e gli anarchici per principio non distinguono tra politici e non politici, ecco, erano altri quelli che distinguevano e sono ancora, ma insomma erano più che altro, adesso io non so se sono ancora cementati su quelle posizioni. Comunque Juan è un compagno anarchico spagnolo, ha vissuto per anni in varie parti d'Italia, ultimamente in Trentino. Nel maggio 2019 fu arrestato dai Nox, mi pare. Insomma, era uscito anche un testo subito dopo il suo arresto, molto molto così, io me lo ricordo ancora, sui trattamenti che aveva subito in questo arresto, dopo questo arresto. E partecipò in particolare Juan alla giornata di lotta del 3 luglio 2011 attorno al cantiere militarizzato di Chiomonte in Val di Susa, dove c'era appunto questo cantiere, no, c'è ancora, ma era stato appena sgomberato con una violenta operazione, insomma, militare, questa occupazione che si chiamava Libera Repubblica della Maddalena, e come risposta decine se non centinaia di compagni avevano assaltato questa zona espropriata dalle forze dell'ordine e dallo Stato, e quindi finì anche Juan nel processone per quella giornata là del 3 luglio 2011, ma rifiutò la difesa ritenendo di non aver proprio niente da cui doversi difendere, e venne per questo condannato a 4 anni. Un punto importante: quando si fanno le lotte, non basta farle, bisogna anche tenere la posizione, ecco, bisogna avere la, non solo la capacità, ma anche la non essere pigri, ecco, non dimenticarsi di quello che si è fatto, continuare a tenere quella quella scelta che si è fatta, ecco, se, altrimenti viene invalidata la scelta, anche se era coraggiosa, ma se uno poi dice no no ma non c'entra, no ma ammette, sì, comincia a cedere, cede anche la sua, il suo gesto, ecco. Maggio 19 però Juan fu incriminato per insomma, venne, dopo l'arresto venne emerse questo, questa operazione, insomma, l'inchiesta per un attacco alla sede del partito della Lega per Salvini di Treviso, che si trova a Villorba. E, insomma, i tempi erano, insomma, prima di arrivare ai tempi, no, fu formulata anche la, la oltre a attentato con finalità di terrorismo, quindi il 280 del codice penale, anche la, il reato di strage. Questa qua era una, veramente un colpo basso, perché l'Italia è il posto dove e sono successe cose come Piazza Fontana nel 12 dicembre 69 a Milano, come Piazza della Loggia a Brescia nel, insomma, nel 74, dove è stata messa una bomba il 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. Ecco, quelle lì erano, se non, cioè, inequivocabilmente erano stragi, perché erano degli ordigni collocati in mezzo alle persone in maniera indiscriminata per creare terrore. E qui lo Stato ribalta le proprie condotte su quelli che invece diciamo mettono in piedi degli attacchi discriminati, perché appunto orientati verso obiettivi precisi e anche su responsabilità chiare, di cui chiedere conto. Ecco, appunto, dicevo prima, era il periodo, il 2018, questo attacco fu fatto nell'agosto 2018, era appena insediato Salvini al Ministero dell'Interno e stava mettendo in opera quell'operazione di porti chiusi, quindi impedire le operazioni di salvataggio in mare, quindi aumentare di conseguenza le morti di, insomma, di chi cercava di attraversare il mare. E, quindi più chiare le responsabilità di così non si muore, ecco, appunto. Dopodiché Juan fu ed è ancora rinchiuso in alta sorveglianza, la chiamano così, è l'esito di quella stagione, appunto, con cui lo Stato, gli anni 70, con cui lo Stato si giocò e vinse con tutti i le sue risorse, anche giocando sporco, soprattutto giocando sporco, è l'esito di quel circuito, appunto, dei camosci che fu messo in piedi dal generale Dalla Chiesa. Non li hanno smobilitati, li hanno lasciati lì, anche se non c'è nessuna, no, anche se non c'è, perché non ci sia nessuna tipo di, diciamo, di fermento scontro, né di, appunto, contestazione, non mi viene la parola, e quindi tutta una serie di restrizioni dovute a questo particolare trattamento in penitenziario, e tra le principali, appunto, non poter incontrare nessuno delle altre sezioni, sì, poi essendo Juan incriminato per questo attacco terroristico e anche individuato come capo, diciamo, che anche se non dovrebbe far ridere, ma è così, è individuato come capo di un'organizzazione terroristica e quindi è sottoposto alla videoconferenza, è sempre stato costretto a sostenere la difesa in tribunale da una postazione di videoconferenza, questa è riservato a tutti i capi, dai, appunto, i capi delle organizzazioni criminali cosiddette, appunto a Alfredo Cospito, altro compagno, per non parlare dei militanti delle Brigate Rosse, Partito Comunista Combattente, appunto, che sono rimasti in 41 bis tutti e quattro, quelli appunto accusati, insomma, condannati per gli omicidi di D'Antona e Biagi. Poi c'era in questo opuscolo che sto sfogliando, che si chiamava I due dragoni del mio anarchismo, c'era appunto questa appendice, ogni volta, sulla prova del DNA, che era anche questa, era interessante, ma adesso il tempo stringe, secondo me è il momento anche di chiudere questa... solo appunto con questa frase, questa citazione con cui si concludeva il fianco a fianco sul processo a Juan e sul perché non lo lasceremo solo, che era dell'anno 2022. Nell'ultimo periodo lo Stato ha mostrato anche ai più distratti che cos'è la giustizia che amministra nei tribunali. I vertici di Autostrade per l'Italia, che hanno lasciato consapevolmente crollare il ponte Morandi, causando una strage di 40 morti, pur di non limitare i propri profitti, sono a casa loro mentre aspettano il processo. I vertici delle ferrovie, che a Viareggio hanno provocato una strage con 32 morti per aver tagliato i fondi destinati ai sistemi di protezione, hanno visto i loro crimini cancellati o prescritti dalla Corte di Cassazione. Intanto si processa per strage, virgolette, qualcuno che è accusato di aver attaccato una sede della Lega. Citazione dall'Ecclesiaste, il libro della Bibbia. E ancora ho veduto sotto il sole il crimine essere il tribunale, giusti aver paga di colpevoli, colpevoli aver premio di giusti. Il libro dell'Ecclesiaste, scritto nel III secolo avanti Cristo, a riprova di quanto antica sia la consapevolezza che giustizia e potere sono potenze nemiche. Bene, lasciamo in sottofondo questa band, loro sono di Torino, sono gli Always, questo è il loro album del 2019, L'odore dell'asfalto, Le sere d'estate. E poi, insomma, dato che non abbiamo presentato molte musiche che abbiamo ascoltato, cercherò di andare un po' in ordine per chi, insomma, è stato un po' attento. Nell'ultimo, durante, in sottofondo, durante l'ultimo intervento, c'era la band, diciamo, della Gorizia, bassa goriziana, i No So Far, e poi mentre durante l'intervento precedente c'era una band dell'Uruguay, i Pirexia. E come ora che facciamo ascoltare brani, diciamo, per intero, prima ancora, tra proprio il cambio di interventi, abbiamo ascoltato i Jilted, band di Alessandria, col loro album datato 2013, Venti di guerra, e rimaniamo ancora così adesso all'ascolto degli Always. Gridando e minacciando con la scopa. Dava dietro alla gatta nera, che le fuggì rapidissima, balzò attraverso l'aia, si rifugiò in cucina dall'Agnese sotto la madia. «Mi ha rubato la salsiccia!» urlò la Minghina. L'Agnese chiuse la porta, si inginocchiò con difficoltà, tirò fuori la gatta. Essa brontolava sorda e palpitava come se il cuore le si fosse ingrandito. Aveva in bocca un topo. L'Agnese disse «Ecco la salsiccia!» e buttò il topo morto dalla finestra contro i piedi della Minghina. Sul muretto dell'aia stavano seduti il maresciallo e una delle ragazze. Il maresciallo rise e disse «Gatta caput!». Kurt, un soldato grasso, veniva in quel momento dalla strada. Aveva il mitra e lo teneva stretto contro il petto come un bambino. Era ubriaco, ma si sforzava di camminare diritto. Il maresciallo gli parlò in tedesco e lui fece il saluto e rispose «Ja, ja» e s'appoggiò al muro, dietro l'angolo della casa. La gatta saltò dalla finestra e camminò piano piano sull'aia, poi fece un balzo di fianco e si mise a correre. Forse cercava il topo. La raffica la raggiunse in una piccola nube di polvere. La gatta rotolò in terra, si appiattì. Sembrò uno straccio nero buttato via. La ragazza e il maresciallo s'avviarono per la cavedagna, si tenevano per mano e ridevano. Kurt entrò in cucina dell'Agnese, sedette presso la tavola, disse «Katz kaputt, mamma!» L'Agnese era rimasta ferma, diritta presso la finestra. La luce le batteva sulla faccia pallida, larga e sudata. Lentamente uscì sull'aia, raccolse la gatta morta, si sporcò di sangue le mani e il grembiule, la tenne così, senza guardarla. Poi la posò in terra sotto il pesco, sedette sull'erba, si asciugò lungamente le mani col fazzoletto. Quando fu buio si alzò, andò verso la casa, si arrestò sulla porta. Le parve di vedere la gatta accucciata sul ripiano della madia, dove stava sempre. Kurt, il soldato grasso, si era addormentato con la testa appoggiata al braccio. L'Agnese guardava. Quella cosa nera che le era parsa la gatta era il mitra di Kurt. Il suo passo si fece a un tratto leggero e senza strepito. Sfiorò appena le pietre del pavimento, la portò vicino alla madia. Lei allungò una mano e toccò l'arma fredda, con l'altra afferrò il caricatore, ma non era pratica e non ci vedeva. Lo mise a rovescio, non fu buona infilarlo nell'incavo. Allora prese fortemente il mitra per la canna, lo sollevò, lo calò di colpo sulla testa di Kurt, come quando sbatteva sull'asse del lavatoio i pesanti lenzuoli matrimoniali, carichi d'acqua. Il rumore le sembrò immenso e nell'eco di quel rumore corse fuori, traversò l'aia, traversò il canale sulla passerella, corse dietro l'argine opposto. Più lontano si distese in terra, lungo la pendenza dell'argine, alzò piano piano la testa, guardò verso la casa. Era buia, silenziosa. Le parve di addormentarsi. La riscosse un frastuono di voci, lo schioppettio di una motocicletta. Stette a vedere le ombre nere che adesso si agitavano sull'aia. Sentì il rumore di un camion e un gran pestare di passi e dei colpi di cose pesanti trascinate per terra e ancora voci tedesche. Poi si levarono urli di donne, disperati, terribili, inutili. E a un tratto s'accese una fiamma, prima azzurra, bassa, poi rossa, più alta, avvolta nel fumo nero contro il cielo schiarito. E ancora le voci tedesche e gli urli di donne. La casa bruciava. Allora l'Agnese si alzò, risoluta e tranquilla. Seguì il sentiero sull'argine, svoltò attraverso i campi, contro la valle. Camminando svelta diceva «Godeteveli i tedeschi». Sì, questo era un brano tratto dall'Agnese va a morire di Renata Viganò. Stanno proprio in questi giorni, diciamo, c'è Ad Alta Voce, che è una trasmissione di Rai Radio 3, e c'è questa lettura integrale di questo romanzo. Può sembrare che non c'entri con la così con diciamo l'argomento, gli argomenti, le tensioni, le suggestioni di stasera, però secondo me invece c'entra, perché parla di un passare all'azione, diciamo, di un passare all'azione anche inaspettato, e anche parla di un passare all'azione inaspettato, appunto, in direzione della vita, per come la vedo io, e non, anche se appunto descrive una vendetta, insomma, che sfocia nell'uccisione di questo nazista. E Allora, intanto appunto questa cosa che a me ha colpito molto è questa cosa della gatta. Non mi ricordavo, perché l'Agnese va a morire, appunto, di la Renata Viganò l'ha scritto nel 49. Renata Viganò è una scrittrice conosciuta principalmente per questo romanzo. Lei era anche partigiana, quindi insomma ha vissuto la da partigiana. Suo marito, non mi ricordo il nome, comunque suo marito, cioè praticamente erano entrambi nella resistenza, e suo marito poi è stato catturato e torturato dai nazifascisti. Lei è rimasta in clandestinità con il figlio di 7 anni, perché non era lei era del, mi sembra, del 1900, insomma non era giovanissima quando è andata nella resistenza. E tra l'altro anche nella sua vita era una amava molto i gatti, ci sono delle foto molto belle con appunto con i felini. E sì, no, niente, è un romanzo che si ai miei te quando io andavo a scuola, nella scuola dell'obbligo, facevano leggere. Non so se adesso ancora facciano leggere queste cose, ma io non me lo ricordavo questa cosa della rivolta, diciamo, dell'esplicitare la rivolta contro i nazifascisti da parte di Agnese. Non mi ricordavo che avveniva proprio come vendetta per l'uccisione della gatta, e questa roba riascoltandola mi ha colpita. E lei dice nel libro, appunto, dice quando racconta ai partigiani, perché poi appunto lei compie questo gesto, poi mantiene la posizione, non molla, anzi la sua prima preoccupazione è quella di arrivare alla base dei partigiani per avvisarli che devono andarsi, bisogna andarsene, perché ci sarà la rappresaglia, insomma. E quindi compie questa cosa, insomma raggiunge i partigiani, riesce a dare l'allarme in tempo e quindi si salvano, riescono a fuggire dal loro nascondiglio. E poi racconta, insomma, loro la portano con loro, non la abbandonano, cioè lei teme un rimprovero, invece anzi si aggrega alla brigata e racconta, appunto, dice che volevo ammazzarli, parlando dei nazisti, quando sono venuti a portar via mio marito. Suo marito era invalido e appunto quando i nazi lo portano via per portarlo nel campo di lavoro, al quale lui non sopravviverà perché era invalido, e lui appunto le affida questa gatta. E lei dice: volevo ammazzarli quando sono venuti a portar via mio marito, ma non fui buona di muovermi. Invece ieri sera è venuto il mio momento. E ci dice in terza persona l'autrice, la Renata Viganò: risentì nel cervello e nelle braccia quell'onda di forza e di odio che l'aveva buttata nell'azione. Boh, questo quindi è come dire, cioè questa rivolta, insomma, totale, questo prendere coraggio che capita ad Agnese, insomma, di fronte appunto a questa violenza assurda, indiscriminata, sì, verso la gatta, e non solo verso la gatta, cioè verso la vita della gatta, no? Verso così. Boh, niente, quindi questa suggestione qua. Allora io direi, come a volte capita, non riusciremo a parlare di tutto, non riusciremo a parlare del deserto, che del mito fondativo dell'agricoltura di dominio di Israele, perché manca poco, ma mettiamo ancora un pezzo musicale e concludiamo con altre parole vive, sempre da dentro e che c'entrano però con la Palestina. Fall into the desert, fall into the desert. Sì, allora lo scorso giovedì qui a Zernis Magnetics abbiamo letto una dichiarazione spontanea del prigioniero palestinese Hanan, appunto anche lui detenuto da un anno e tre mesi in alta sicurezza a Terni come Juan, e appunto dichiarazione spontanea che Hanan aveva letto nell'udienza preliminare, insomma, che lo vede imputato insieme a, ad Ali e a Mansour di associazione con finalità di terrorismo, e appunto concludeva questa sua dichiarazione spontanea Hanan dicendo: qualcuno di voi può alzarsi e dire che Israele è uno stato occupante, oppressore, terrorista? Questa verità la sapete tutti in cuor vostro, ma nessuno di voi può dirla ad alta voce, perché vi ritrovereste accusati di antisemitismo, perdereste il vostro lavoro o potreste trovarvi a dividere con me il tavolo a pranzo in carcere con un'accusa di terrorismo. Per questo dico e ripeto che forse i palestinesi sono i soli liberi in questo mondo di schiavi. E annunciavamo anche lo scorso giovedì, appunto, di questa udienza, la prima udienza vera e propria con dibattimento, che si è svolta il 2 di aprile, e quindi ieri. E allora è giusto dare così, illustrare un attimo l'esito di questa udienza. Imputati erano Hanan, Ali e Mansour. Hanan non è stato portato all'Aquila da Terni, ma ha dovuto seguire il processo in videoconferenza. E tra l'altro all'esterno del tribunale dell'Aquila c'è stato un presidio nutrito, i compagni e le compagne parlavano di una settantina di partecipanti, più 10 circa che si alternavano dentro e fuori, insomma, dall'aula del tribunale. E beh, c'è stato anche uno sgombero, il giudice a un certo punto ha fatto sgomberare l'aula in quanto c'è stata una contestazione, perché c'è stata, perché la traduzione praticamente degli interventi del compagno Hanan era fatta male, quindi stravolgeva il significato delle affermazioni del compagno, e quindi i presenti che capiscono l'arabo, insomma, si sono incazzati giustamente, quindi c'è stata questa contestazione. Però il giudice ha fatto sgomberare dal pubblico, quindi, e insomma, questa prima udienza si è conclusa malamente, perché praticamente la Corte dell'Aquila ha accettato l'ammissibilità nel processo di metà degli interrogatori che sono stati fatti nelle carceri israeliane, dove appunto i prigionieri sono stati sottoposti con ogni probabilità a tortura, e nonostante questo gli interrogatori israeliani sono stati accettati, mentre sono state negate le consulenze della difesa. Il collegio di difensori aveva individuato, insomma, tutta una serie di figure istituzionali, ma anche dei servizi segreti israeliani, comprendevano anche dei soggetti, insomma, che fanno parte dei servizi segreti israeliani, appunto come testimoni, e sono stati rifiutati, poi rappresentanti anche dell'ONU, per dire, tutta una serie di soggetti che chiedeva la difesa di sentire, sono stati rifiutati. Quindi così a caldo, diciamo, alcuni commenti da parte di attivisti che lottano, insomma, per la liberazione di Hanan, dicevano che il processo sembra, diciamo, architettato, messo in piedi in una maniera per non far emergere, diciamo, non evidenziare le atrocità che lo Stato sionista commette ai danni, appunto, dei partigiani palestinesi che lottano per l'autodeterminazione, per la liberazione della loro terra, e al contrario invece per in tutte le maniere tenersi buoni, diciamo, tenersi buono il potere dello Stato di Israele. Cioè l'Italia in questo è veramente schifosa, e al contrario, appunto, impedire, diciamo, agli imputati e alla difesa di far emergere contenuti spinosi attraverso, appunto, i testi chiamati. e contenuti spinosi relativi appunto a quello che fanno le forze dell'ordine, le forze armate israeliane, ai trattamenti dei prigionieri, tutte queste cose qua. Quindi diciamo come prima udienza questo, c'è questa cosa insomma brutta. I tempi sono questi, ma naturalmente, come ben ha detto Annan, non bisogna andare avanti e non farsi scoraggiare, anche se ci sono insomma momenti di questo tipo. E è giusto, come si diceva di questa questione della videoconferenza, no? Che cioè oramai diciamo la videoconferenza viene applicata, non ci sono questioni, non viene, cioè viene applicata indiscriminatamente quando si vuole desolidarizzare gli imputati, cioè quando si vuole negare in maniera appunto sistematica agli imputati e alle imputate di poter avere una dimensione reale, una relazione reale con i difensori, con ma anche con i solidali insomma che sono presenti in aula. E quindi anche questo è una tattica proprio di indebolimento e di violenza nei confronti degli imputati. E niente, allora per questa sera con gli interventi chiudiamo qua. Io ribadisco, invito ancora a venire a Trieste in Campo San Giacomo sabato 5 aprile dalle ore 16 in poi per questo momento di politico e di socialità e poetico e di per stare insieme, insomma, conoscersi e riconoscersi. Haiku senza haiku, versi scatenati, vi aspettiamo e intanto vi saluto e al prossimo giovedì e passo la palla alla regia. Bene, allora siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dalle ore 20 alle ore 21:30. Anche oggi giovedì 3 aprile 2025, ma giusto per non dimenticarmi quello che abbiamo ascoltato, durante l'intervento precedente in sottofondo c'era una band statunitense di Portland, Oregon, i Destripados, Destripados, da un loro album datato 2018, Mentre ora stiamo ascoltando in sottofondo band storica dell'anarcho-punk inglese, ovvero i Conflict, e dal loro album che era uscito nel 2000 e scusate nel 1983, che era It's Time to See Who's Who Now. Bene, allora, come ho detto prima, Tardins Magnetics ogni giovedì dalle ore 20 alle 21.30, ma non ho detto che noi trasmettiamo da Radio Onde Furlane da Udine e che il programma è messo insieme e che viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste, e che se volete scriverci potete farlo tramite posta elettronica scrivendo alla mail liberetutti@autistiche.org, oppure scrivendoci in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121, ripeto, intestare ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Poi salutiamo anche chi ci ascolterà domani mattina dalle ore 11 su Radio Eustachio, e anche chi ci ascolterà nel pomeriggio su Radiazione dalle ore 17, ed entrambe queste due sono delle web radio. E inoltre chi vuole ascoltarci, cioè chi vuole riascoltare questa trasmissione di oggi, di 3 aprile 2025, ma anche quella delle volte precedenti, può andare sull'internet cercando zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, questo è tutto. Vi lascio con con i Conflict che sono in sottofondo, e al prossimo giovedì.